Pronto, mi senti? Sì, sono Laura, abbiamo fatto cambio, ci siamo scambiati il telefono. Allora, abbiamo con noi dunque le compagne che hanno organizzato Agape, il campo lesbico di quest'anno che si è svolto questa fine settimana e che ci raccontano a caldo com'è andato. Sì, è stata come sempre un'esperienza forte, emozionante, anche molto partecipata. Anche quest'anno eravamo più o meno al tutto completo e ci sono state anche parecchie nuove iscritte, quasi fino a metà. E l'altra metà, un po' più di metà, erano sia alcune affezionate che abbiamo conosciuto lo scorso anno, sia tante della vecchia guardia, diciamo, tante persone che magari avevano partecipato anni fa anche a diverse edizioni, che quest'anno hanno deciso di ritornare e di anche loro costruire insieme a noi questa bellissima esperienza. C'era anche una delle che è stata tra le fondatrici del campo, Sara Bouchard, ci ha fatto moltissimo piacere averla con noi. Insomma, così a caldo sono ancora preso dall'esaltazione, non saprei nemmeno da dove partire a raccontarvelo. I laboratori sono piaciuti molto quest'anno, è stato scelto da molte campiste il laboratorio di orto urbano, hanno costruito queste bellissime cassettine con le piante, insomma, per avere un piccolo orto nel terrazzo. È stato molto, molto bello vedere come anche c'è stato una partecipazione da parte di persone di diverse età, e c'è stato soprattutto molto bello come nonostante ci fossero anche molte giovani, molte donne più adulte, diciamo, c'è stato molto dialogo tra le diverse generazioni, quindi è stato, volendo poi parlare del conflitto, è stato anche molto interessante vedere diversi modi di vivere il lesbismo e di far politica anche, è stato veramente molto intenso. E quando eravate? Quando dici era pieno? Quanto eravamo? Erano una sessantina di campiste, 64, Solo per avere. Più una tra laboratoriste e relatrici, più o meno una decina, eravamo 72 in tutto, comprese anche noi della staff. E poi avete fatto la festa? Ah sì, la festa è andata avanti fino alle ore piccole, è stato anche questo molto bello, insomma, anche perché avendo fatto magari delle plenarie un po' più concettuali e politiche, è stato anche bello poi svagarsi insieme. Ah, si sono formate delle coppie? Ma non si sa, ma... Come non si sa? Alcune, non lo so, però so che c'è stata molta interazione, come tutti gli anni, si sa che il campo lesbico è anche una bella occasione per conoscere gente nuova. No, lo so, sono andata. Sì, è stato, come sempre, questo credo che sia una costante. Sì. È stato molto bello anche a proposito delle plenarie, sono state molto, molto seguite. Poi un'altra novità di quest'anno, un laboratorio era il laboratorio che produceva un giornalino del campo, e quindi è stato bello anche il fatto che alla fine dei tre giorni si avesse una testimonianza scritta sotto forma appunto di questa sorta di gazzettina, che insomma fa un po' dà uno sguardo generale sulle varie cose che abbiamo fatto, che sono successe, è stato molto carino. Infatti è questo che ti volevo chiedere, ma per esempio delle plenarie avete registrato, avete un po' delle tracce? Solo per capire se chi non ha potuto, chi non è potuto andare può poi... Hanno registrato l'intervento di Valeria Santini, che ha distribuito un questionario e poi ci ha fatto una restituzione finale molto ironica, si intitolava L'arte di essere indimenticabili, insomma, su una sorta di lezione su come far conquiste e non essere mai dimenticate. È stato molto simpatico. E gli altri, purtroppo le plenarie non sono state registrate, però abbiamo parecchie foto, insomma, delle varie attività, ma non registrazioni, purtroppo. Tocca andare. Infatti tocca andare, performativo. Sì. Vabbè, guarda, grazie. Se c'hai qualcos'altro da aggiungere, comunque noi tutti gli anni seguiamo il programma, diamo l'informazione, sì. Si sa che comunque è un evento lesbico importante. Sì, anche perché comunque è rimasta una delle poche esperienze che sì. raccolgono una partecipazione a livello nazionale e che comunque ogni anno viene riproposta, quindi sì. è veramente una bellissima occasione, una bellissima piattaforma di scambio di esperienze e anche un bel laboratorio comunque. Sì, sì, perché un bel equilibrio tra politico, azioni, diciamo, sì. pratica e condivisione e più... anche divertimento. Sì, sì, divertimento è questo. Sì, sì, infatti siamo molto contente insomma di fare parte di questa cosa come staff, ci sentiamo insomma veramente entusiaste di fare parte di questo continuare. Progetto. Allora, appunto preso per 2014. Sì, grazie bene, mille. Allora, al prossimo anno, sì. grazie a voi di averci dato la possibilità di parlarne. Buon lavoro. Grazie, ciao ciao. Ciao.